involontariamente, volontariamente, qualcosa di veramente spaventoso. L'unico duplice omicidio d'Italia di cui non si sa assolutamente nulla. Nel senso che ogni anno che passa, nessuno, né un pentito, né un infiltrato, né una spia, né un moribondo che si vuole confessare, nessuno, siamo in questi giorni, stiamo trattando della strage di Prima Valle a Roma, no? Come dopo 30 anni vengono fuori notizie su quei fatti. Fausto Iaio, il silenzio più totale, e questo fa rabbrividire.